X24 di Giovanni Minoli. Michele Emiliano non se ne va più, molla Bersani e Rossi alla loro scissione e si candida contro Matteo Renzi per la segreteria del Partito Democratico. Mi candido alla segreteria del PD perché questa è casa mia e nessuno può cacciarmi o cacciarci via. Per uno che rimane, altri 40 tuttavia sono già con un piede fuori dal PD. Roberto Speranza conferma che si va avanti con un nuovo soggetto politico. Enrico Rossi sfoga la rabbia. Renzi ha alzato un muro, ci ha dato solo bastonate. Non voglio più stare nel partito, penso che restituirò la tessera, dice. Ma l'ex premier non cambia rotta, spedisce una e-news in cui accusa i dissidenti di non aver mai digerito la sua leadership. Non mi sento di iscrivermi al PD, non mi sento di partecipare a questo congresso. Succederà che viene incoronato Renzi e poi non lamentiamoci se arriva la destra. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Abbiamo sentito, continuano più che mai le divisioni all'interno del PD. E se dalla parte delle divisioni ci sono gli uomini, dall'altra parte però a favore dell'unità, di un'unità assoluta, ci sono, sono schierate le donne del partito. Anna Maria Parente, senatrice del PD, ha lanciato un appello all'unità del partito e a firmare quell'appello online sono state tante, tante donne del PD. Buongiorno Anna Maria Parente. Buongiorno a voi. A quanto siete arrivate? Quante firme siete arrivate? Sulla piattaforma online 1400 donne. 1400? Sì, ed sì. È stato difficile raccogliere queste firme o c'è stata una reazione istintiva? Assolutamente no. Noi abbiamo cominciato venerdì pomeriggio, la sera avevamo già 1000 firme. 1400 firme in tre giorni, sì. Quella cosa, la cosa meravigliosa è che ci sono arrivati dei messaggi stupendi di donne che ci dicono tipo abbiate più umiltà, il nostro popolo è per il bene comune, l'unità, il PD è l'unico partito che può arginare la deriva che c'è in questo paese, noi siamo un grande valore, sto leggendo solo alcune delle frasi, sì. Imparare a conoscere i bisogni del paese. Questo per noi è una grande forza. Segnalano il distacco della classe dirigente maschile dalla realtà del paese, insomma, sintetizzando, sì, un po'. E nello stesso tempo per noi è una grande forza. Certo, naturalmente, ma un appello su una piattaforma precisa oppure su un bisogno? Sì, change.org è la piattaforma. Sì. No, lei si riferiva al bisogno preciso. Sì. Noi per esempio nell'appello diciamo torniamo allo spirito costitutivo del Partito Democratico. Sì. Che è esattamente lo spirito dell'appello, perché noi abbiamo firmato in 70 tra deputate, senatrici e due parlamentari europee, e l'appello è in sé un sintomo di come il PD dovrebbe essere. Senta, cioè allargamento, non il partito non è di qualcuno, certo, ma di tutti. Ma siamo arrivati a questo caos totale, secondo lei per colpa di chi? Guardi, intanto penso che non ci sia stato un dialogo vero e un ascolto vero. Mm. E naturalmente sono problemi che non ci nascondiamo dietro un dito, che ci portiamo dalle origini del Partito Democratico. Certo, certo. Sono due anime che non si sono mai fuse, sì, veramente. Il Partito Democratico era nato per il dialogo, per l'ascolto e per l'incontro tra culture diverse e invece storie diverse. È esplosa la contrapposizione. Adesso, senta, senatrice, speriamo ancora però. Senatrice Parente, la politica, sì, però in questi giorni ha dato la sensazione di vivere sulla luna, cioè di essere sostanzialmente sulla luna, talmente staccata dalla realtà, discorsi praticamente incomprensibili per gli esseri umani normali. E per quello che le dico, le frasi che ci hanno scritto su questa piattaforma invece dimostrano che il popolo è ancora con noi e che ci restituisce tantissima forza. Quello che dobbiamo fare è riflettere sulle forme di partecipazione, però, entrano le persone nel nostro partito, perché non è mistero di nessuno che i circoli molte volte sono chiusi. E non c'è un dialogo vero. Ecco, però io le faccio delle domande concrete. Sì, può essere che lo slittamento di qualche giorno, un mese o due, 2 della data del congresso butta via l'unità più grande del più grande partito della sinistra europea. Cioè non c'è nessuno che riesce a capire come uno slittamento di un mese o due mesi sia possa essere la causa di un terremoto così grande. E infatti è molto triste le cause. Cioè, ma sono... è triste, ma è incomprensibile soprattutto. Le cause sono, bisogna ricercare le cause nelle questioni che dicevamo prima. Ecco, sono... ma per esempio, ma sempre per essere concreti, è lecito chiedere a Renzi di non ricandidarsi? Assolutamente no, avviso. Ecco, senta, è stato io, il premier, è stato il, abbiamo parlato il prima, partito. Abbiamo parlato prima di Emiliano, abbiamo sentito. Le faccio sentire come in questi giorni le posizioni di uno dei protagonisti che in questo momento tiene la scena, cioè Emiliano, sono cambiate da un giorno all'altro. Senta questo primo Emiliano che parla di Bersani. E se quel partito è sopravvissuto e ha dato la possibilità a Matteo di essere presidente del Consiglio ed è arrivato al 40%, è perché il suo segretario è stato capace di vivere la comunità e non il personalismo nella politica. Adesso le faccio sentire l'Emiliano che parla di Renzi. Ho fiducia in lui, che ho fiducia nella sua capacità di guidare questa gente meravigliosa, che ho fiducia nel fatto che egli non ha intenzione di sacrificare, alle sue legittime aspirazioni politiche. Ci mancherebbe che qualcuno si permettesse di dirti che non ti devi ricandidare al congresso, ma io non so chi abbia mai potuto anche solo concepire una cosa del genere. Ecco, adesso si è candidato anche lui. Queste tre facce di Emiliano, un po' levantine se vogliamo, sono il simbolo finale di questo caos maschile? Vediamo l'esito finale. Ieri Emiliano in direzione ha detto: mi candido perché questa è casa mia. Credo che questo esito finale sia importantissimo. Ecco, certamente. Casa mia è esattamente quello che noi dobbiamo costruire, una casa comune. Sì, appunto, ma abbiamo adesso... sentito 3 Emiliani in 2 giorni diversi. Bisogna chiederlo a lui. Io vabbè, no, cioè, conosco noi... Emiliano. No, anch'io lo conosco bene, non è che lo stimo, ma questa cosa sorprende. Senta, un'ultimissima cosa. Sì. Se al posto degli uomini ci fossero state delle donne, credo sarebbe stato più semplice? Penso che ci sarebbe stato più dialogo e ascolto, questo sì. Poi ci saremmo divise comunque, però è mancato proprio il retroterra di ascolto vero. Grazie senatrice, grazie. Grazie a lei. Grazie 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Ecco, tanto Renzi è andato negli Stati Uniti, una mossa che non è piaciuta a molti, ad altri hanno considerata come dire una normale giro di esperienza. Si dice ha perso un'occasione di un dialogo, mi pare che il dialogo ulteriore non fosse tanto su che cosa. Su niente, ecco. Direi, perché di cosa devono discutere? Il congresso è già... l'esito è abbastanza chiaro, gli servivano 2 competitor interni. Adesso ce li ha, ce l'ha, mezzo sta arrivando, quindi più o meno, ecco. Forse sai cosa, ha sbagliato posto dove andare, perché mi pare vada in California, sì. Ci fa niente in California non si capisce cosa sta succedendo, realtà negli Stati Uniti doveva andare in Ohio, in Michigan doveva andare, Michigan. C'è l'industria là. Magari fa un giro, ecco. Emiliano ha dichiarato che resterà, l'abbiamo sentito, sfiderà Renzi al congresso, alla fine... È quello che voleva Renzi, Pietraggio, no? Non lo so, ha trovato, se è quello, insomma, che voleva, sembra Renzi. Almeno. Però posso dire una cosa, Emiliano ha fatto un grande, gravissimo errore. Quale? E cioè quello di essersi infilato in questa vicenda da cui non ne uscirà vivo e forte, quando invece lui aveva una grande possibilità, che era quella di costruire Sud. Un grande partito del Sud. Sì. Era quella di poter costruire, forte della sua esperienza amministrativa, certo. Forte anche del suo carisma, tutto di popolo, un partito che fosse speculare a quello che meritoriamente la Lega Nord ha svolto in questi anni. Però quello era solo un pezzo del discorso, non sarebbe mai stato un partito nazionale se era solo quello. E purtroppo adesso è una fase storica in cui c'è bisogno di questo soggetto politico. Basti vedere che cosa succede a sud di Roma. Il famoso partito nazionale, poi soprattutto il PD, e quel PD di Matteo Renzi è stato quello che più di ogni altro ha massacrato la politica a sud di Roma, anzi ne ha fatto... No, non se ne è occupato sostanzialmente. O quando se ne è occupato, come nel caso del referendum, era soltanto per creare questa imbarcata pittoresca delle clientele. Vabbè, secondo me insomma, ha mancato lì e purtroppo è un errore che pagherà caro. Vedremo, intanto mentre qui si discute su questo futuro del PD sempre più difficile da decifrare, nel resto del mondo si discute anche di altre cose. Un argomento interessante davvero per tutti lo ha introdotto Bill Gates ed è quello dei robot che svolgono lavori come gli uomini e lui dice forse dovrebbero pagare le tasse. Il dibattito riparte in modo quasi automatico. Tra le due sponde dell'Atlantico, la proposta rimbalza periodicamente e ora si arricchisce di un endorsement di primissimo piano, quello di Bill Gates, l'uomo più ricco del mondo. Tassare le macchine e i robot che sostituiscono il lavoro dell'uomo. Se un'azienda utilizza sistemi automatici, genera più profitti risparmiando sul costo del lavoro, questi utili siano tassati. Questo l'assioma di fondo che il fondatore della Microsoft ha ripreso in una recente conferenza. Si prospetterebbe una doppia tassazione alla società che produce la macchina e a quella che la utilizza, da usare in parte per garantire un reddito di sostegno alle persone che perdono il lavoro a causa del processo di automazione. Questo corollario Gates non lo esplicita apertamente e del resto è uno dei punti più controversi del dibattito. Pochi giorni fa il Parlamento europeo ha approvato un documento in cui si gettano le basi per il riconoscimento della personalità giuridica dei macchinari, ma ha bocciato la proposta di creare un fondo di solidarietà per i disoccupati. Ecco Riccardo Luna, direttore dell'AGI, buongiorno, ma soprattutto buongiorno. Esperto di questi temi che ha studiato da sempre. Ecco, secondo lei la tassazione ha un senso, è giusta? La tassazione non ha un senso, ma il tema ha molto senso, perché certo. È vero che siamo in una transizione digitale molto lunga e complicata, tutte le precedenti rivoluzioni industriali hanno creato nuova occupazione, hanno distrutto del lavoro, ma ne hanno creato nuovo in settori diversi. In questa ancora si fa fatica a girare, a voltare pagine e arrivare nella fase in cui i posti di lavoro creati sono superiori a quelli perduti. Anche quindi perché in questa versione, diciamo, dello sviluppo, per ora, per esempio negli Stati Uniti, il 60% dei posti che si sono persi per l'innovazione non sono più tornati. È corretto, però ci sono per esempio in Europa 1 milione di posti di lavoro vacanti che non si riescono a occupare perché non ci sono persone con adeguate competenze digitali. Certo. Avrebbe senso oggi investire su una grande alfabetizzazione della società, non solo dei ragazzi ma anche degli adulti. Io ripeto spesso che se oggi un cinquantenne perde lavoro fa una fatica incredibile a ritrovarlo perché non ha più le competenze per i lavori che si fanno adesso. C'è stata un'accelerazione, io la calcolo più o meno dal 2007, da quando è arrivato l'iPhone. Prima dell'iPhone non c'erano le app, prima delle app non c'era Uber, prima di Uber i tassisti non avrebbero protestato in questo modo. Cioè voglio dire, l'accelerazione è stata così rapida che oggi senza competenze digitali è molto complicato. Quindi ha senso porsi il problema della transizione e delle competenze. Ovviamente Bill Gates parla di robot perché è un bel titolo, certo. Ma non ci riferiamo soltanto ai robot, è tutta l'automazione digitale che sta trasformando completamente il mondo del lavoro. Il problema non è tassare il futuro, tassare l'innovazione, il problema è gestire la transizione, cosa che si fa grande fatica a fare. In Italia non c'è nessun programma di competenze digitali né per gli adulti né per le scuole. Pensate alla vicenda dei tassisti, si trascina dal 92 e la transizione è stata gestita con un decreto che si chiama mille proroghe, e questo dà l'idea del fatto che il rischio di una tassa sui robot sia soltanto un modo per frenare il futuro. Però il problema c'è, il problema della disuguaglianza che in questo momento si crea c'è. Bill Gates è diventato l'uomo più ricco del mondo in 20 anni facendo Microsoft, e Microsoft con i personal computer ha cancellato moltissime occupazioni che c'erano prima. Quindi è probabilmente una reazione che rivela anche una presa di coscienza di una responsabilità, insomma, cioè la velocità del cambiamento non è stata accompagnata da quella riqualificazione a cui fa riferimento lei, sia dei giovani ma anche dei meno giovani. Assolutamente sì, non a caso proprio in Silicon Valley si parla da un anno e mezzo del fatto del reddito minimo di cittadinanza. Cioè la proposta che in questo momento in Italia cavalcano i 5 Stelle, in Silicon Valley la cavalca il più grande incubatore acceleratore di startup, che è uno dei luoghi di innovazione, che si rende conto che l'innovazione è meravigliosa perché fa progredire il mondo, ma se è troppo rapida le persone restano indietro e questo crea un disagio sociale che poi si ritorce verso la società, perché poi, i tempi dell'innovazione non è che debbano coincidere esattamente con la possibilità dell'innovazione, cioè il tempo dell'innovazione che si adatta alla società può essere anche diverso da quello della possibilità concreta, no? A me ha colpito molto il fatto che Bill Gates sia disposto a dire che l'innovazione potrebbe anche rallentare, esatto, un po', che è abbastanza singolare. Ma non è singolare, che... è una presa di coscienza intelligente del fatto che non è che tutto quello che si può fare si deve fare nel momento immediato. No, sì, credo che questo significhi questa riflessione di Bill Gates. Il merito di Bill Gates è dire: guardate che c'è un problema. C'è un problema gigantesco. Quando Davos è venuto fuori che 8 persone nel mondo hanno il reddito della metà delle persone del pianeta, dato Oxfam, quelle 8 persone, 4 vengono da Silicon Valley e hanno fatto i soldi in 20 anni grazie alla rivoluzione digitale. Allora, che significa che qualcosa non funziona. Esattamente, c'è un'accumulazione di ricchezza sproporzionata. Dopodiché, come in tutte le precedenti rivoluzioni industriali, sicuramente investendo sulle competenze, sullo studio, sul capitale umano, ci saranno nuove occupazioni. Citavo il milione di posti di lavoro in Europa liberi, ma ci sono molti lavori che è chiaro che si possono fare se hai studiato, se hai imparato, se sai usare il digitale. Se sai farlo. Il fatto che non si possa fare più il facchino perché Amazon usa i robot non è negativo, cioè non è che l'uomo deve essere condannato a fare il facchino, certo, ma le persone devono poter studiare per poter fare un mestiere con cui i robot lo comandano, lo controllano, lo utilizzano. Ecco, quindi poi... è giusto che i lavori pesanti, i lavori pericolosi li facciano i robot. D'accordo, vabbè, ma questa è l'automazione della fabbrica, anche della fabbrica tayloristica, sono andata tutta in questa direzione. Ecco, Riccardo Luna, poi c'è un'altra riflessione da fare comunque nel merito di questa eventuale tassa. A chi andrebbe questo contributo? A chi perde il lavoro, a chi non riesce a essere assunto, alla formazione? Allora, sicuramente il reddito di cittadinanza senza formazione vuol dire che ci condanniamo a essere degli assistiti con una società che è comandata da robot e non facciamo più nulla, diventa disumano addirittura. Quindi il reddito di cittadinanza deve essere finalizzato al fatto di formare le persone, farle crescere, farle migliorare nelle loro competenze e farle rientrare nel mondo del lavoro in una posizione, certo, migliore. Certo, non può essere una pensione anticipata a vita. Esattamente. Se poi il reddito di cittadinanza viene usato per coprire buchi di bilancio, per coprire le buche stradali, evidentemente è improprio. Cioè, il reddito deve essere finalizzato a far crescere l'occupazione futura e i nuovi settori. Oggi, per esempio, si parla molto degli sviluppatori di programmi di computer o i data scientist che analizzano i dati creati dal digitale e ne creano valore o ne creano applicazioni. Tutti i mestieri che oggi, che 10 anni fa non esistevano e per cui oggi quasi non ci sono neanche le scuole. Ecco, ma chi li insegna questi mestieri? Perché poi il problema è anche, sì, fare la formazione. Per fare la formazione ci vogliono i formatori. Allora, il programma del precedente governo sulla scuola digitale è un programma importante, ha stanziato 1 miliardo di euro. Io devo dire, francamente, non ne vedo gli effetti, avendo ancora 2 figli a scuola, e la scuola è ancora molto, molto analogica. Ma dove è stato speso questo miliardo? Intanto è stato speso o è ancora lì? No, in buona parte è stato speso per fare laboratori dove i ragazzi possono cominciare a usare i computer a scuola, perché lì è l'inizio, devi cominciare non solo a usare i computer, ma imparare la lingua, lingua. Esattamente, la lingua per programmare e farli tuoi computer, cioè farli diventare qualcosa che ti aiuta a creare, a costruire, a produrre. Certo. E poi ovviamente si tratta di riconvertire appunto la popolazione adulta, che sennò ha davvero delle grandi difficoltà. Sì. Insomma... Il problema della disoccupazione è un problema di competenze in gran parte, cioè oggi è ovvio che c'è quello che in Europa chiamano un digital skill mismatch, cioè non c'è un incontro di competenze tra quelle digitali e quelle... E quindi torniamo al problema della scuola e della formazione, siamo sempre lì. Non è neanche colpa nostra in fondo, perché il cambiamento è stato così rapido che quasi non ce ne siamo resi conto. Certo. Un giorno abbiamo cominciato a fare tutto con le app, ma non ci rendiamo conto che quando facciamo una cosa con l'app ci sono posti di lavoro che non che ci sono finisco. Più. Oggi quando prenotiamo un viaggio con un'applicazione, con un click, abbiamo tagliato fuori 4-5 posti di lavoro come minimo. Esattamente. Grazie Luna. Grazie a voi. 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms. Insomma, tassiamo sti robot, no Mario? No, niente. No, ma è una... Bisogna fare la scuola per formare. Bisogna formare una nuova generazione di esseri umani. Però. È un grosso errore di Bill Gates. Perché non... Cosa... Beh, però errore, lui più che altro ha posto un problema. Insomma, allora, facendo una provocazione. Posso fare io la provocazione, sì, certo, su queste. Allora, Google, 61.000 dipendenti, 552 miliardi di capitalizzazione. Facebook, 12.000, questa è una statistica che ho fatto io. presa dai dati ufficiali di bilanci. 12.691 dipendenti, 340 miliardi di capitalizzazione. Twitter, 2.172 dipendenti, 12 miliardi di capitalizzazione. Vabbè, appunto, non se, l'industria digitale non crea posti di lavoro. General Motors, 215.000 dipendenti, 56 miliardi di capitalizzazione. Ma scusate, loro hanno la coscienza da lavarsi, perché lavorano su che cosa? Sulla bolla del Nasdaq. Senza buste paga, senza dipendenti, di che cosa stiamo parlando? Loro sono il principale fattore di cambiamento dello scenario del lavoro, purtroppo distruggono posti di lavoro e non se ne creano abbastanza. Appunto, Trump, i nazionalismi, che cosa sono? Al punto che Bill Gates sente il bisogno di fare una provocazione, perché si sente la coscienza sporca. Sono in colpa. Si fanno filantropi perché sono diventati talmente ricchi che si costruiscono i bunker per rifugiarsi quando la gente senza lavoro li assalterà. Di che cosa stiamo parlando? Dai, basta. Certo, anche perché Dio ce ne scampi, quando qualcuno parla in nome dell'umanità non è altro che un barbaro che sta cominciando a costruire la devastazione. Però vorrei dire, la fase urgente adesso è quella della consapevolezza. Paradossalmente c'è anche una mutazione antropologica. Assolutamente. Noi ci troviamo di fronte a quello che nella preistoria avvenne quando, con la consapevolezza del dito prensile, il pollice che riusciva a catturare le cose, ci rese distanti e differenti dal resto del creato e ci diede la possibilità, diciamo, di un'evoluzione. Adesso questa fase è quella che devasta il mondo del lavoro. Lo stesso sciopero dei tassisti ne è una dimostrazione. La stessa disperazione in cui versa l'informazione con i giornali che chiudono, perché la gente ormai non ha più bisogno. Poi aggiungi di quello. Che nei giornali assumono anche gli asini. No, vabbè, ma quello è un altro discorso, è un problema di selezione. Detto niente. Sentiamo allora un vecchio saggio professore sindacalista, un sociologo del lavoro, il professor Bruno Manghi. Ecco, professore, come valuta lei, dal suo punto di vista, della sua storia, questa proposta di tassare i robot? Questa è una provocazione, però certo, è importante, perché ci costringe a pensare a un problema molto aperto, di cui io non vedo una soluzione. Non vedo una soluzione, ma che assolutamente dobbiamo metterci a studiare, a capire, eccetera, perché il problema esiste, delle, diciamo, tecnologie che mangiano il lavoro. È il problema della storia umana, insomma, in qualche modo. In altri casi si è risolto con il trasferimento di masse straordinarie di persone da un settore all'altro. Adesso non sembra possibile. Adesso questo sembrerebbe di no. Comunque stiamo vivendo, diciamo, questa quarta rivoluzione industriale, che ha tempi e modalità molto più veloci e più violente delle precedenti. Ecco, strumenti culturali adatte per affrontare questo tema, no? E gestirli, li abbiamo secondo lei? Bisogna che le persone di testa più giovani di me si mettano sul serio a darci dentro, a pensare e a darci delle piste di sperimentazione. Fondamentalmente, diciamo, nel dopoguerra, sia est sia ovest, c'era una visione ottimistica, cioè nel senso che le nuove tecnologie portavano altrove lavoro. Il meglio, il valore, il lavoro. L'altra, a cui sono abituato anche per il mio passato sindacale, era la riduzione dell'orario di lavoro. Certo. Però è una cosa molto complessa per due motivi. Primo, o è planetaria. Cambiano i prezzi. La seconda è che, salvo il 69-70, non c'è mai stata una riduzione di orario senza riduzione del salario. E quindi voglio dire, non mi sembra che i lavoratori siano propensi a questo scambio. Anzi, senta, due secoli fa, comunque lo diceva già un po' lei, si distruggevano i telai. Oggi invece gli uomini non possono certo distruggere le nuove tecnologie, oppure no, sì? Diciamo che anche la distruzione dei telai si è tentata. Ma sì, non ha certo dato risultati. Non ha vinto. Diciamo, cominciamo a dire così. C'è un trasferimento in corso di lavoro dai lavori manifatturieri e simili ai lavori sulla persona, però non sembra assolutamente sufficiente, anche perché anche nel terziario le tecnologie mangialavoro ci sono. Anzi, ce n'è tantissimo. Non sono i robot. No, quindi, poi è anche il problema di definizione del robot, cioè quando comincia il robot, Cioè, voglio dire, il computer è un robot o non è un robot? Quando è che... No, ha capito, qual è il momento da tassare? Qual è la macchina da tassare? Dal punto di vista dell'impatto sul cosiddetto lavoro vivo sono molto simili. Anzi, il computer è molto più... è molto più attivo che non il robot. Poi il computer ha già distrutto moltissimo lavoro, sì, che appunto, non, si è rigenerato. Non si è rigenerato gran lavoro. Qui siamo anche a problemi che interpellano la nostra civilizzazione, perché esatto. Anche se uno dicesse comunque produciamo tanto di quel valore che possiamo redistribuirlo al di fuori del lavoro, entriamo in una situazione di civilizzazione a cui non eravamo abituati, perché noi siamo abituati a pensare che il lavoro è la molla principale per la mobilità sociale. Il tema è questo: se io mi rifaccio sul robot, sull'informatica, sì, traendone un valore aggiunto che distribuisco, sì, come lo distribuisco? Infatti questo è il secondo punto. Questo è un temone. È come in grande se fossi un piccolissimo paese che ha un mare di petrolio e si può permettere di dare ai suoi cittadini dei soldi. Senta, professor Manghi, lei però, per chiudere con un paradosso, sì, lei nella sua vita è stato un grande sindacalista. Se lo vede un futuro in cui saranno le macchine a scioperare per avere più diritti? No, questa era già una famosa battuta dell'Automobile Workers. Al tempo, quando avevano detto ai nostri capi: state attenti che questo lavoro lo possono fare anche i scimmioni, e lui diceva: ma i scimmioni non comprano automobili. No, qui è tutto, è molto legato a una questione forte, cioè se tutta questa trasformazione porta ad una flessione globale della domanda rispetto alle capacità produttive, beh, è dura, certo, perché se la domanda continua a crescere io posso lavorare in maniera redistributiva. Ma se a un punto c'è un collasso della domanda perché le nostre forze produttive sono troppo efficienti, troppo efficaci, andiamo in un altro scenario. E che poi è un pochino la situazione nella quale siamo entrati, perché la stagnazione siamo già lì. Se in più ci mettiamo anche i robot al posto dell'uomo, D'altra parte io che amo ancora la fabbrica, quella che resta, eccetera, devo dire che il fattore di liberazione dalla fatica e da altre disgrazie che portano i robot è notevole. Certo, e quindi ben vengano, ma tassiamoli per sostenere quelli lì. Sì, però sappiamo che questa cosa non ha un frutto universale. Serve, migliora la condizione del manifatturiero. Certo. Che è una bellissima cosa per uno che ha conosciuto le fabbriche. Ma non è tutto, certo. Ma non è tutto. Ecco, questo tema ha appassionato i nostri ascoltatori, che in gran maggioranza dicono la loro sulla tassa ai robot. Noi abbiamo lanciato un sondaggio sulle nostre pagine Twitter e Facebook e fino a questo istante il 64% dei nostri ascoltatori è favorevole alla tassazione dei robot, come risulta oltretutto anche dai messaggi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms pubblicità. Mix 24. Vabbè, qui continuiamo a discutere su questa tassa, perché veramente pone problemi che affronteremo ancora spesso in questa trasmissione. Pietrangelo, intanto cosa ci fai sentire oggi? Una a grande richiesta di nuovo. Perduti a rincorrere il vento. Deve essere Battiato. Ho l'impressione. Da qualche anno mette Battiato. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Allora? Ma si può dire di no a Mercuzio? No. Ha chiamato di nuovo, ha richiesto ancora una volta la canzone di ieri, e questo l'ha voluto fare perché Giulietta e Romeo, giunti finalmente a Mantova, tutta quella guerra di cattivi astri sono riusciti a trasformarla in un dolce abbandono, quello che fugge e che sempre sarà. Amore che vieni da me fuggirà tra un mese e tra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni da me, Mario, tu dove ci porti? In America. Dancing anymore. Senti, senti. Ci può stare stamattina, ci può stare. Allora, dunque, a leggere le prime pagine, anche dentro tutto, insomma, del New York Times e del Washington Post e così via, della grande stampa progressista americana, illuminatissima, sembra che tutta l'America sia contro la politica dell'immigrazione di Trump e che dalla Casa Bianca tra un po' arrivi appunto la rivoluzione. Poi il problema è che l'America è leggermente più ampia della Quinta Strada e di Capitol Hill. E così viene fuori che qual è il consenso popolare al muro? The Hill, che ripeto, un giornale di Washington no pro Trump, anzi contro Trump, però sta pubblicando una serie di sondaggi in questi giorni molto interessanti che, diciamo, restituiscono un po' di realtà alla cosiddetta narrazione della contemporaneità americana di cui stiamo leggendo, diciamo, con grande interesse in questi giorni. Allora mettetevi comodi, cari rivoluzionari, perché il golpe è rimandato. Cosa dicono i sondaggi? Il 75% degli americani vuole più controlli alle frontiere, cioè l'aumento della polizia di frontiera, come annunciato da Trump. Il muro, che c'è già, ricordo che lo fece Bill Clinton e fu votata la sua estensione da Barack Obama e Hillary Clinton, ha il supporto del 47%, questo è il tema che divide, diciamo, contro invece un no del 53%. Sempre il 53%, senti, senti Giovanni, sostiene la necessità del bando sugli ingressi di 7 paesi, quello per 120 giorni che ha innescato il caos, lo scontro giuridico con le corti americane. L'America è divisa? Sì, certo, è divisa, non ci sono dubbi. Beh, non mi sembra il 50% più o meno. Esatto, e non potrebbe essere diversamente. Ma se andiamo a fondo, se andiamo a vedere esattamente come è divisa e perché e su cosa, le politiche di Trump hanno un grande supporto popolare in realtà. C'è da 50%. E no, dipende, perché per esempio i controlli alla frontiera 75%, quindi va bene, ma invece il muro, il muro no. 50, è solo che devono dirlo a Clinton, l'ha fatto lui. Lo smantellino, no. Allora, questo è il punto. No, ma parlando del supporto popolare, no, sul muro c'è una divisione netta. Sì, quindi... è il vero argomento. Il vero argomento sul quale si dividono è questo, ma ti dico anche perché: per il costo. E questo è il vero punto. Il contribuente americano pensa che costi troppo. Finché in effetti Trump non risolve questo problema, secondo me non lo farà alla fine, e aumenterà invece Border Patrol, cioè la polizia di frontiera sul Messico. Questo farà. Bene, vedremo. Saramino. Più che il taxi, poté la sedia a rotelle. Assalto al palazzo ieri. La vera rivolta non è quella dei tassisti a Roma. L'insurrezione più travolgente è quella cominciata a Palermo con PIF, ossia Pier Francesco Di Liberto, regista e beniamino del pubblico, che si è messo alla testa dei manifestanti, cioè i disabili gravi cui l'amministrazione, la burocrazia, l'elefantiaca gestione del potere nega l'assistenza. E dove se no? Una situazione insostenibile per 3.600 casi gravi di veri invalidi nella terra dei falsi certificati. E dunque ieri PIF, guidando una manifestazione di disabili e dei loro familiari, è entrato dentro Palazzo d'Orléans per chiedere una risposta definitiva a Rosario Crocetta, il presidente della regione caduto dal pero, anzi dal fico d'India. Lei fra due mesi risolve il problema di tutti i disabili. La conseguenza qual è? Se non succede, lei si dimette. Fra due mesi me lo dirà. Fra due mesi me lo dirà. E se non le risolve? Fra due mesi me lo dirà. Non avete più credibilità. Ascolta, non avete più credibilità. Per fare politica. No, e risolve il problema. Ho preso degli impegni e tu li verificherai. La vicenda, come nella triste cronaca tipica di Sicilia, è grottesca. Ancora tarantella. Un assessore del governo Crocetta, Gianluca Micciché, quota Partito Democratico, un anno fa assicura l'assistenza a due fratelli disabili, Gianluca e Alessio Pellegrino, che sono tetraplegici gravi, che dalle 14 di ogni giorno si ritrovano soli e senza nessuno accanto. Una promessa mai mantenuta, quella dell'assessore, fino a quando le Iene, accompagnando i due fratelli, fanno scoppiare lo scandalo e Micciché rassegna le dimissioni, portando così a quota 42 il numero degli assessori dimessi del governo di Crocetta. Ogni fegatino di Mosca, si sa, fa sostanza, non si può perdere il posto. E nel frattempo, ma sempre ripreso dalle telecamere nascoste delle Iene, il Micciché che fa? Corre a casa dei fratelli Pellegrino e contratta un do ut des, un cambio merci, un favoruccio, uno scambio, cioè se lo aiutano a conservare l'incarico di governo, lui provvede a far dare loro il finanziamento, l'assistenza. La vicenda non riguarda solo i due fratelli, né solo i 3.600 disabili gravi di Sicilia. La questione dell'assistenza è un capitolo tutto italiano e però il Vespro parte da Palermo grazie a PIF. Ex Iena, beniamino del pubblico, testimone Giovanni di una dinamica tutta di politica e di informazione, che è quella che il giornalismo non può più dare o non sa più dare. E allora ha ragione Maurizio Caverzan, quando sulla Verità, a proposito di giornalismo con punto, oltretutto ti chiama in causa Giovanni, perché mette a confronto la tua intervista, la tua tecnica, con quelle che poi, attraverso il tapiro di Staffelli a Renzi o di Enrico Lucci vestito da guardia rossa, raggiunge e ottiene dei risultati. Vogliamo sentire ancora una volta PIF e Crocetta? Stiamo aspettando la decisione. Quando? Allora, non risponda, non faccia la supercazzola. Quando? Quante supercazzole hai incontrato nelle tue interviste? Non male. Senti, adesso... un'iniziativa appunto importante a favore di bambini affetti da disabilità, a cura della Dinamo Camp. Serena Porcari, CEO della Fondazione Dinamo, vicepresidente operativo di Dinamo Camp Onlus, l'associazione che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche e alle loro famiglie. Ecco, dottoressa Porcari, cos'è la terapia ricreativa? La terapia ricreativa è la base scientifica dietro la quale tutte le attività di Dinamo Camp sono organizzate. L'obiettivo è quello di far fare ad ogni bambino di quella settimana di vacanza, quindi più o meno sono 90 i ragazzi che ospitiamo, un percorso attraverso ciascuna attività sportiva e ricreativa. Ecco. Quindi ogni bambino si trova davanti a una sfida, deve affrontarla, deve riflettere su quello che è riuscito ad ottenere e con questo poi aggiunge, diciamo, fiducia in se stesso. Ecco, mi fa un esempio, mi fa un esempio concreto di attività di terapia ricreativa? Allora, per esempio, non so, mettiamo Marco che è un bambino con la spina bifida, che si trova quindi sulla sedia a rotelle, si trova davanti alla nostra parete di arrampicata che arriva fino a 8 metri, si chiede come potrà affrontare una parete di arrampicata e in realtà con l'aiuto dello staff e dei volontari riesce a farlo grazie anche ad alcuni supporti che rendono la parete accessibile. Arriviamo fino agli 8 metri, poi scende con una, no, con una corda, una zipline, certo, fino a terra e poi in fondo festeggia. Ha capito che ce l'ha fatta, ha capito che ce l'ha fatta. Ecco, ma dove si svolgono queste attività? Cioè fisicamente dov'è Dinamo Camp? Allora, Dinamo Camp è a San Marcello Pistoiese, un paesino che si trova nella strada tra Firenze e la Betone ed è all'interno di un'osi affiliata a WWF di circa 1200 ettari, quindi siamo in mezzo alla natura. Senta, ma Dinamo compie 10 anni di attività, quanti bambini ha accolto in questi anni? Allora, siamo, sì, esatto, la nostra decima estate sarà quella che è in arrivo, più di 8.300 bambini abbiamo accolto in modo completamente gratuito e più di 2.800 genitori nei programmi dedicati alle famiglie. Ah. E chi sono i vostri uomini sul campo? Tecnici specializzati? Allora, chi sono? Noi lavoriamo con tante persone, con bambini, attraverso l'aiuto di professionisti, quindi responsabili di attività, responsabili di casetta e diciamo persone che sono quindi retribuite, e poi tantissimi volontari che ogni settimana si aggiungono allo staff per poter aiutare i ragazzi a compiere questo percorso. Ecco, dottoressa Porcari, i volontari, che sono tanti, quanti sono i volontari? Che caratteristiche devono avere? Basta chiedere, volerlo fare, se uno volesse fare il volontario. In realtà sì, noi li formiamo, li selezioniamo, li formiamo, però non hanno, il volontario non ha un background pazzesco specifico sulla formazione, sullo stare con i bambini malati. Quindi abbiamo veramente una variabilità enorme di persone. Quindi basta fare la richiesta a voi, insomma. Esatto, su dinamocret.org ci sono tutte le informazioni per diventare volontario. Perfetto, e come si finanzia Dinamo? Ultima domanda. Allora, è un camp completamente gratuito, ci finanziamo soltanto attraverso la raccolta fondi, unicamente di privati, tra fondazioni, imprese e tantissime persone, individui che ci aiutano. Che vi aiutano. 10 anni. Voi avete una campagna in corso? Allora sì, siamo dal 10 al 27 febbraio, si può donare con un sms sia da telefono fisso che da rete mobile al 45514. Ecco, ricordo ancora i numeri per partecipare alla campagna a favore di Nimo Camp, 45514. Pubblicità. Mix 24. L'obiezione non è l'essere vecchi, l'obiezione è l'essere acerbi, cioè giovani. In questo senso il cristianesimo ripulisce l'equivoco che c'è anche nella scrittura, quando il profeta dice: rendete onore a Dio nel tempo della vostra gioventù, prima che vengano gli anni tristi in cui uno dice non fosse mai nato. Nel cristianesimo è esattamente l'inverso: quanto più uno cresce, tanto più ringiovanisce, tanto più si rende giovane. Il 22 febbraio del 2005 muore Don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Prete carismatico, amato e contestato, lascia un'eredità controversa e complessa. Nato a Desio nel 1922 da padre socialista e madre religiosa, entra in seminario a 11 anni e diventa prete a maggio del 45, un mese dopo la liberazione di Milano. A 30 anni decide di misurarsi con la gioventù milanese e chiede di insegnare al liceo Berché. Da questa esperienza e da quella della cattedra alla Cattolica di Milano nasce nel 1954 Comunione e Liberazione, un movimento che propone con forza l'originalità dell'esperienza cristiana nell'Italia degli anni 60. Movimento che nel 1982 riceve riconoscimento formale da parte di Papa Giovanni Paolo II. Allora, per la storia, dunque, 12 anni dalla morte, racconteremo la vicenda personale, politica, religiosa di Don Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione. Mario, c'è un aggiornamento? Sentiamo Gordon. Ma che gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse mare non morirebbe più nessuno. Non morirebbe più nessuno, però i soldi comunque qualcuno li sa fare, visto che ieri Wall Street ha macinato tutti i record degli indici, quindi siamo ai massimi della sua storia. Le borse a livello globale stanno anch'esse seguendo la scia di Wall Street, anche perché Wall Street fa il 50% poi alla fine di questo mercato globale. C'è da interrogarsi su quanto durerà, ovviamente. La crescita non durerà all'infinito, soprattutto una crescita così sostenuta. Ma però, se certo, il dollaro si indebolisse, cambierebbe. Cambia. Infatti introduci il secondo argomento, perché senza saperlo volevo dire l'ulteriore cosa è che le Federal Reserve non sanno cosa fare, nel senso che stanno sollevando opinioni contrarie al rialzo dei tassi e lo dicono, diciamo, apertamente. C'è però dentro la Federal Reserve chi sostiene che bisogna alzarli tre volte. La stessa Yellen ha aperto. Vabbè, lo scontro l'abbiamo raccontato ieri, mi sembra che sia all'apice. Esatto, la cosa interessante qual è? Che questa è la conferma comunque di un processo decisionale che ha delle opacità e delle, e delle contraddizioni. Ecco. Poi ci sarebbe un'altra notizia clamorosa, secondo me. Non so se abbiamo il tempo. Il secondo è che un detenuto di Guantanamo, britannico, si è fatto esplodere poi contro le truppe americane a Mosul. È una cosa incredibile. Ed era stato risarcito per la detenzione da 1 milione dal governo inglese. Adesso, capito? Beh, questo ci torneremo. Adesso con il professor Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. American Journal of Epidemiology, dicembre 2016. Terapia con analgesici e rischio di danni all'udito nelle donne. La presbiacusia, cioè il sentirci di meno, è un danno parafisiologico. A 45-50 anni si vede di meno e bisogna inforcare gli occhiali per leggere da vicino. A 65-70 si inizia a sentir di meno, e questo è un prezzo che paghiamo alla nostra longevità. Allora evitiamo di farci danno da soli con l'utilizzo di farmaci che siano potenzialmente dannosi sull'udito. I ricercatori hanno allora testato alcuni dei farmaci più comuni: l'aspirina, l'acetaminofene e gli antiflogistici non steroidei, quelli che vengono normalmente utilizzati per i dolori, i doloretti, le artrosi e quant'altro. E questo è stato fatto ancora una volta nelle preziosissime infermiere americane. Ancora una volta il Nurses Health Study ci dà delle risposte. Valutate 55.850 infermiere, quindi persone potenzialmente affidabili nelle risposte che ci davano, e studiate nel periodo tra il 1990 e il 2012. Si è visto che quelle che utilizzavano l'aspirina non avevano danni maggiori all'udito, mentre invece quelle che utilizzavano l'acetaminofene e gli antiflogistici non steroidei ci sentivano di meno. Quindi è una ovvia indicazione che, non dico di eliminare gli antiflogistici e l'acetaminofene, che spesso sono molto comodi, ma usarli con parsimonia e, semmai, privilegiare sempre la vecchia aspirina. Per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto? Oggi vi mando da lontano una canzone per chi in solitudine raccoglie i cocci della vita che aveva immaginato. Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna.